convertite all'Islam e offre uno scambio, liberate i nostri prigionieri e li rilasceremo. Il caso Expo, l'authority guidata da Cantone verso la vigilanza sugli appalti, il magistrato a Radio 24, rinunciare alla manifestazione sarebbe come far vincere la criminalità, oggi primi interrogatori di garanzia. La vicenda dell'arresto di Scajola, oggi interrogatorio per la moglie di Amedeo Mattacena, decine di faldoni sequestrati all'ex ministro, dentro ci sarebbero veri e propri dossier. In Ucraina plebiscito ad est per l'indipendenza, la Germania attacca, è chiaro che il voto è truccato, il Cremlino dice di sperare nel dialogo. Manca un mese ai mondiali in Brasile, al momento non è pronto nemmeno lo stadio del debutto, resta alta la tensione sociale nel paese in vista dell'appuntamento. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Vi ricordo come sempre i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it, la nostra email, c'è la nostra pagina Facebook, l'account Twitter al quale se volete mi potete scrivere, Simone Spezia, e mi trovate. Riprendiamo e poi più avanti verremo a quello che abbiamo scelto come titolo di apertura, che è la vicenda delle ragazze nigeriane rapite, perché come avete sentito ci sono degli aggiornamenti, ne parleremo con i responsabili di Amnesty International in Italia, e però apriamo invece con le vicende giudiziarie e con gli aggiornamenti ancora una volta e ovviamente sull'inchiesta Expo. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Arrivano i primi interrogatori e con essi subito le prime ammissioni. Decide infatti di parlare e sostanzialmente ammette nell'insieme quanto gli viene contestato. Enrico Maltauro, l'imprenditore edile arrestato giovedì insieme ad altre sei persone nell'inchiesta sulle mazzette intorno all'Expo, davanti alla GIP Antezza e ai PM, uno dei beneficiari, uno dei principali anzi beneficiari della cupola degli appalti, ha scelto di rispondere alle domande e ha confermato quello che d'altra parte video e foto gli mostravano con grande evidenza e gli contestavano, il passaggio di soldi anche in contanti in busta, ora 25, ora 15.000, ora 5.000 euro. Il fatto insieme al Tauro lo ha ammesso, ma poi l'imprenditore attraverso il suo difensore Paolo Grasso ha fatto sapere che vorrà chiarire meglio i contorni, diciamo, del suo rapporto con i vari politici, sia Frigerio sia Cattozzo, con cui ha detto di essere legato da un rapporto di lontana amicizia, sia gli altri coinvolti in questa inchiesta nei successivi interrogatori con i PM. Nei giorni scorsi, subito dopo l'arresto, anche l'ex senatore Luigi Grillo aveva detto: chiarirò tutto quanto mi viene contestato, parole che sembrano preludere all'intenzione di voler rispondere subito anche nell'interrogatorio di garanzia. Intanto l'inchiesta, appunto, con la giornata degli interrogatori permetterà di chiarire rapporti e anche in qualche modo linee difensive degli indagati anche rispetto al punto più sensibile, cioè i rapporti con la politica, quanto ci sia di millanteria, quanto ci sia di rapporti dichiarati e quanto invece effettivamente fossero stretti questi rapporti. Intanto le indagini, anche gli atti dell'inchiesta allegati all'ordinanza, ricostruiscono contorni ancora più ampi, diciamo, degli interessi di questa cupola affaristica che, oltre all'Expo, alla sanità e al nucleare, aveva messo le mire anche ad esempio su alcuni lavori della provincia di Milano. Saremo a vedere questa giornata come si concluderà, Simone. Grazie alla nostra Raffaella Calandra, che naturalmente continuerà ad aggiornarci su tutto questo e più avanti proprio sui riflessi politici di tutto questo e capire quanto fossero veri questi contatti con la politica. Intervisteremo l'ex assessore con delega all'Expo nel Comune di Milano, Stefano Boeri. Intanto invece sentiamo Raffaele Cantone, la cui authority, l'authority anticorruzione, verrà investita del compito di controllare su Expo, a quanto pare, intervenuto stamattina intervistato da Alessandro Milan in 24 Mattino. Ma io credo la responsabilità principale della politica sia stata quella di sottovalutare il fenomeno, cioè di girarsi un po' dall'altro lato, che l'operazione Expo si è fatto per esempio grande diciamo attenzione alle infiltrazioni della mafia, e forse questa visione un po' strabica ha fatto sì che ci sia stata un'attenzione minore rispetto alle infiltrazioni che non sono meno pericolose degli affari. E l'ultima cosa è questa, lei appunto sarà a Milano, sa che ci sono molti che dicono no l'Expo, lei invece dice l'Expo va fatta, è un impegno da mantenere? Ma io credo che, diciamo, rinunciare all'Expo, questa è una valutazione politica, sia chiaro, quindi a me non compete. Certo. Io però da cittadino, e questo lo dico da cittadino, credo che rinunciare all'Expo, soprattutto adesso, non rinunciare a priori, significherebbe dimostrare che l'illegalità vince. Cioè significherebbe dimostrare che siccome ci sono fenomeni corruttivi vasti, lo Stato non è in grado di far argine a questi fenomeni. È come quando si dice non facciamo una partita di calcio perché c'è il rischio tifosi. È chiaro, è evidente che queste sarebbero da tanti punti di vista delle sconfitte che io credo che la nostra democrazia non si può diciamo permettere. Però questa è una mia valutazione da cittadino, io sono un funzionario dello Stato, se mi viene chiesto qualcosa che è nelle mie possibilità lo faccio, le valutazioni politiche spettano ad altri. Certo. E ora le ultime sul caso invece di Claudio Scajola, le chiediamo al collega del Sole 24 Ore Roberto Galullo. Buongiorno Roberto. Buongiorno a voi tutti. Beh, le ultime sono che tra qualche ora, alle 14.30, dovrebbe iniziare un interrogatorio abbastanza lungo di Chiara Rizzo, che è la moglie di Amedeo Matacena, il latitante coinvolto nell'operazione che ha portato all'arresto di Scajola. Dico abbastanza lungo perché le cose da chiedere sono tante, a meno che, come ha già fatto il ministro Scajola, l'ex ministro Scajola, anche Chiara Rizzo non si avvalga della facoltà di non rispondere. Questo il quadro dal punto di vista dei prossimi passi, mentre invece abbiamo letto oggi di una serie di faldoni che sarebbero stati trovati durante le perquisizioni a Scajola, dei veri e propri dossier. Allora, sulla la fantasia dei giornalisti si può sbizzarrire, ma dobbiamo rimanere ai fatti. I fatti sono quello che il Sole 24 Ore, con un mio servizio da Genova, ha scritto sabato, vale a dire che un furgone di carte è pronto a partire verosimilmente domani per Reggio Calabria da quel di Genova. All'interno di queste centinaia, migliaia di documenti c'è di tutto, c'è la vita politica di un paese, perché come la stessa direzione investigativa antimafia ha avuto modo di dire, Scajola era una persona estremamente meticolosa e quindi ci sono addirittura delle fotocopie di scontrini fiscali, di lettere di auguri, insomma Scajola ha in buona sostanza archiviato la vita politica italiana. Quello che si troverà lì dentro lo sapremo soltanto nelle prossime settimane, quando la documentazione arriverà presso la DIA di Reggio Calabria, lì comincerà l'esame di investigatori e di inquirenti. E per tutto questo dunque c'è grande attesa. Grazie a Roberto Galullo del Sole 24 Ore. Veniamo alla cronaca dall'Ucraina. Per l'ufficialità dei risultati annunciati come plebiscitari del referendum di ieri sull'indipendenza da Kiev bisognerà aspettare. Se a Lugansk tutto sembra procedere come da programma, i separatisti della regione di Donetsk infatti hanno annunciato ritardi dovuti alla difficile situazione sul campo, dove effettivamente questa mattina le forze governative ucraine hanno ripreso la loro offensiva contro i filorussi. Ma qualunque saranno i dati, i sostenitori dell'una e dell'altra parte non cambieranno opinione. Per Europa e Stati Uniti la consultazione è illegale e illegittima. Per la Russia, pur con tutti i distinguo e gli inviti al dialogo, è valida espressione della volontà popolare. La mediazione al momento passa dall'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione, il cui presidente di turno, lo svizzero Burkhalter, ha illustrato oggi al Consiglio dei Ministri degli Esteri europei il suo piano per la ricomposizione della crisi. Sono quattro i pilastri, dice: fine della violenza, disarmo, dialogo ed elezioni. La titolare della Farnesina, Federica Mogherini, dà il suo pieno appoggio. Continuiamo a lavorare sulle sanzioni, sapendo però che il punto fondamentale è sostenere gli sforzi che soprattutto l'OSCE sta facendo per il dialogo nazionale. La crisi ucraina, avverte intanto la direttrice dell'FMI Lagarde, è un nuovo rischio per l'economia mondiale che difficilmente si può misurare. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I 28 ministri degli affari esteri dell'Unione stanno discutendo stamani qui a Bruxelles la possibilità di ampliare il raggio d'azione delle sanzioni contro la Russia, accusata di ingerenze nella crisi ucraina. I paesi europei potrebbero decidere di colpire anche aziende situate in Crimea, l'ex penisola ucraina ormai annessa alla Federazione Russa. Il voto referendario del fine settimana in Ucraina orientale, indetto dai separatisti prorussi, ha reso il clima particolarmente difficile. Ormai si teme il passaggio della regione sotto il controllo russo. Il ministro degli esteri inglese William Hague è arrivato stamani a Bruxelles minacciando sanzioni economiche contro Mosca. Molti paesi restano contrari a queste ipotesi per paura di ritorsioni. La stessa Gran Bretagna potrebbe avere citato questa soluzione solo per mettere la Russia sotto pressione. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Questo è il quadro sull'Ucraina. Veniamo a parlare di immigrazione, perché la polizia ha individuato e arrestato due presunti scafisti a Pozzallo, mentre da Trieste sono partiti gli arresti per 10 persone a capo di un'organizzazione criminale che era dedita alla tratta di esseri umani. Erano in maggioranza ragazzini gli immigrati somali sbarcati la scorsa notte a Porto Empedocle in provincia di Agrigento. Su un totale di 97 persone, 61 erano minori senza genitori, che vanno a ingrossare ora le fila delle già affollate strutture per minori in Sicilia. A Trapani in meno di 10 giorni sono approdati circa 1800 migranti. Ma arrivano anche buone notizie sul fronte delle indagini. Stamattina la polizia di Ragusa ha fermato due presunti scafisti dell'imbarcazione con a bordo 233 siriani, soccorsa da una nave della Marina Militare Italiana due giorni fa nel porto di Pozzallo. Sono due tunisini. Secondo alcuni testimoni avrebbero ricevuto un compenso di 6.000 euro ciascuno per il viaggio, che avrebbe fruttato all'organizzazione circa 460.000 euro. A Trieste, invece, la polizia ha arrestato 10 persone ritenute a capo di un'organizzazione criminale dedita alla tratta di esseri umani, con punto di raccolta in Turchia, destinazione Italia, Nord Europa e base tra le province di Trieste, Brescia e Bergamo. Un centinaio quelli entrati illegalmente con questo sistema, che pagavano all'organizzazione tra i 5 e i 10 mila dollari ciascuno. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora una giornata di calcio nella quale a far discutere è stato soprattutto quello che si è visto sugli spalti. Sciopero del tifo, croci celtiche, striscioni inneggianti a Daniele De Santis, l'ultrà giallorosso arrestato con l'accusa di aver sparato a Ciro Esposito prima della finale di Coppa Italia. Ma nel complesso, a una settimana dalla violenza di Tor di Quinto, il dispositivo di sicurezza all'Olimpico ha retto. Il rischio era altissimo, tanto che lo spiegamento di forze è stato massiccio: 2.500 agenti, quasi 1.000 in più dell'ordinario, 530 steward allo stadio, agenti in borghese per segnalare eventuali focolai e un'intensa attività di intelligence. Si tira dunque un sospiro di sollievo, anche se resta la vergogna di quelle scritte sugli spalti, che si aggiungono ad altre comparse in Germania nello stesso fine settimana durante partite valide per la Bundesliga. Gli ultra del Bayern Monaco e del Borussia Dortmund hanno infatti esposto cartelli dedicati a Speziale, il ragazzo condannato per la morte dell'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti. Sono rimasto frastornato, come se ci fosse uno sdoganamento di certi ragionamenti fuori dai nostri confini, ha commentato il presidente del CONI Malagò, Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di calcio, siamo ad un mese dai mondiali in Brasile. A meno 30 giorni da Brasile-Croazia, la partita inaugurale dei mondiali di Rio, il paese dei padroni di casa non è ancora pronto per il fischio d'inizio. Proprio lo stadio del debutto è uno dei tre ancora da completare sui 12 che ospiteranno le gare. Nella stessa situazione del San Paolo, altri due impianti, l'arena di Curitiba, dove tra le altre giocheranno Spagna e Russia, e lo stadio di Cuiabá, nel Mato Grosso. La morte del nono operaio che lavorava in uno dei cantieri del Mondiale, avvenuta 4 giorni fa, e i costi faraonici della manifestazione, che supereranno quelli delle precedenti edizioni di Germania e Sudafrica, hanno creato il malcontento tra i brasiliani. I rischi più consistenti, quelli a livello sociale. Lo sostiene Paolo Magri, direttore dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano. Ci sono 3 focolai accesi che possono riaccendersi per sfruttare l'attenzione mondiale e il forte negoziale nei confronti del governo. Quello del ceto medio, che è sceso in piazza un anno fa per chiedere trasporti, ospedali e scuole. Le richieste sindacali, abbiamo già visto le richieste e gli scioperi della polizia militare o della polizia federale, e si preparano anche gli operatori degli alberghi. E infine il malcontento di chi vive nelle favelas e che è stato spostato per le opere dei mondiali. Lucia Maffei, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si chiude oggi a Torino il Salone del Libro. Ecco quello che è successo nelle fotografie radiofoniche della nostra inviata. La TV ha danneggiato la lettura. Così tuona all'inaugurazione il ministro della cultura Franceschini, che pretende un risarcimento. Pubblicità gratuite come invito alla lettura e programmi dedicati ai libri, ma non in orari improbabili. Eppure è stato un evento a metà fra libri e TV a essere fra i più gettonati. Braccialetti rossi. Preso d'assalto dai ragazzi lo stand Rai, dove si trovava l'autore spagnolo Espinosa, insieme ad alcuni protagonisti della serie TV italiana, che ha avuto ascolti fra i 7 e gli 8 milioni a puntata. Bagno di folla anche per star televisive come Carlo Cracco e Bruno Barbieri, protagonisti della sezione del salone dedicata ai libri di cucina. Pienone agli incontri con Francesco Piccolo e Michele Serra, con il maestro del crime americano Joe Lansdale, innamorato in modo non ruffiano dell'Italia e soprattutto della Puglia, e all'incontro del fotografo McCurry, autore di una celebre copertina del National Geographic. Tema di questa 27esima edizione, il bene. Paese ospite d'onore, il Vaticano, con il cardinale Ravasi che ha detto: il grande nemico del bene è l'indifferenza, non avere nessuna reazione davanti allo scandalo del male. Da sottolineare il fenomeno Bergoglio. In un anno di pontificato sono stati pubblicati ben 250 libri del e sul Papa. Ultimi dati diffusi a Torino. In Italia leggono solo 43 persone su 100. Il mercato perde anche all'inizio del 2014 circa il 6%. Va bene solo il settore bambini e ragazzi con un più 3,5%. In controtendenza le vendite al salone, c'è anche chi ha toccato un più 50%. Libri più gettonati, quello dei fratelli Carofiglio e poi Susanna Tamaro, madrina di questa edizione, Sveva Casati Modignani, Gramellini, Vitali, Stefano Benni e ovviamente l'opera omnia di Camilleri per i 20 anni di Montalbano. L'appuntamento è per il 2015 con la Germania paese ospite. La delegazione della Buchmesse in visita a Torino ha apprezzato il nostro modello di salone, ma si è lamentata per il troppo rumore. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ragazza nigeriana è rapita, il gruppo estremista islamico Boko Haram in un nuovo video offre uno scambio: liberate i nostri prigionieri e li rilasceremo. Il caso Expo, l'autority guidata da Cantone verso la vigilanza sugli appalti. Il magistrato parla a Radio 24, dice: rinunciare alla manifestazione sarebbe come far vincere la criminalità. Oggi i primi interrogatori di garanzia. E oggi interrogatorio anche per la moglie di Amedeo Matacena, coinvolta nell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'ex ministro Claudio Scajola, al quale sono stati sequestrati decine di faldoni. Dentro ci sarebbero veri e propri dossier e un po' di storia politica italiana. In Ucraina, plebiscito ad est per l'indipendenza. La Germania attacca, è chiaro che il voto è truccato. Il Cremlino dice di sperare nel dialogo. Oggi vertice dei ministri degli esteri europei. 13 arresti e uno stabilimento sequestrato per la mozzarella di bufala adulterata. Naturalmente siamo in Campania. E come avete sentito dai nostri titoli, ci sono aggiornamenti sulla vicenda delle ragazze nigeriane rapite dal gruppo estremista islamico di Boko Haram. E gli aggiornamenti sono che c'è un nuovo video di Boko Haram nel quale si propone sostanzialmente uno scambio, per così dire, di prigionieri: liberate i nostri e in cambio lasceremo andare le ragazze. Dall'altra parte viene detto che sono state tutte convertite all'Islam. Saluto Riccardo Nuri, che è portavoce di Amnesty International in Italia. Buongiorno. Buongiorno. Allora, le chiedo innanzitutto se ci può aiutare a capire un po' nuovamente, vogliamo ritornare un attimo sui contorni della cosa, perché dalle notizie che si stanno diffondendo appunto sappiamo che si parla di una conversione all'Islam. In realtà gran parte di queste ragazze, a quel che sappiamo, erano già musulmane. Sì, questo risulta anche a noi, ma evidentemente Boko Haram ha una sua idea di quella che deve essere proprio quello che deve essere il dogma specifico che le persone dovrebbero seguire. Quindi credo che non fosse sufficiente il fatto che fossero ragazze di religione islamica, educate da famiglie islamiche, per loro non basta. Senta, voi insieme a molti altri, tra cui ormai lo sappiamo a memoria la First Lady americana Michelle Obama, avete lanciato una campagna di mobilitazione. A cosa può servire però, ci chiediamo? Uno degli obiettivi fondamentali di questa campagna è stare vicino alle mamme e alle famiglie delle ragazze rapite. Stanno patendo un dolore assurdo e ovviamente tutti speriamo che la vicenda finisca bene, ma ci vorranno anni per uscirne fuori dal punto di vista psicologico, quindi l'obiettivo è stare vicino a loro. In secondo luogo è quello di spronare il governo nigeriano a fare quello che finora non ha fatto, cioè usare tutti i mezzi leciti per trovare le ragazze, garantirne il rilascio in condizioni di incolumità. Quello che abbiamo visto in queste settimane è stato confusione, sospetti, notizie rivelatesi infondate, voci contraddittorie. Quello che è certo, sulla base delle testimonianze raccolte da Amnesty International, è che le autorità militari nel nord-est del paese sapeva anche il governatore dello stato di Borno, hanno avuto 4 ore di tempo per impedire il sequestro e non l'hanno fatto. Quindi ci sono delle connivenze tra le autorità e Boko Haram in queste azioni, secondo voi? Di certo c'è stata la mancata organizzazione di truppe adeguate nelle 4 ore in cui si poteva fare, tant'è che poi nel villaggio di Chibok alla fine sono arrivati 200 uomini di Boko Haram e hanno incontrato 17 soldati e qualche agente di polizia. Ci sono stati preavvisi da parte dei vigilantes di un villaggio, ci sono stati segnali da parte anche di un pastore che si è visto passare davanti a un convoglio di motociclette che chiedevano dove fosse la scuola, ci sono stati tutta una catena di telefonate sia alla base di Maiduguri che all'altra base ancora più vicina alla città dove c'è stato il rapimento, quella di Damboa, c'è stata una telefonata al governatore dello stato di Borno e un altro ufficiale delle forze di sicurezza nigeriane ha detto ad Amnesty International che le truppe sono frustrate, mal pagate, non gli va di andare a rischiare la vita per Boko Haram. Questa è una abdicazione tra le più atroci al dovere di proteggere la popolazione civile. Senta, la situazione sul campo, infine, perché nella speranza che questa vicenda si risolva nella maniera migliore possibile, il problema appunto sul campo resta, nel senso che dalle cronache che abbiamo letto in questi giorni le ragazze ormai hanno paura, almeno in quello stato, anche solo appunto ad andare a scuola, e le minacce di Boko Haram e le azioni di Boko Haram sulle scuole sono state costanti in questi anni. È vero, purtroppo il rapimento della mattina del 15 aprile è il più numeroso, ma non è l'unico e non è stato neanche l'ultimo, perché il 5 maggio sono state rapite 8 studentesse nelle comunità di Warabe e di Wala e c'erano stati anche episodi nei 2 anni precedenti. La situazione sul terreno è persino peggiorata all'inizio di quest'anno, perché noi abbiamo da gennaio ad aprile oltre 2000 persone uccise nel conflitto che è in corso nella Nigeria nord-orientale, un conflitto che chiama in causa anche le rappresaglie delle forze di sicurezza, l'uso degli arresti illegali. Quando Boko Haram dice liberate i nostri, c'è anche dentro in carcere gente che non ha commesso reati e dunque è un contesto di crimini di guerra commessi da entrambe le parti, con Boko Haram che prende di mira obiettivi civili, le chiese, gli edifici governativi e certamente anche le scuole, con tutte le persone che ci stanno dentro. Grazie Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International, buona giornata. Grazie, buongiorno. Saluto Stefano Boeri, ex assessore alla cultura del Comune di Milano e che aveva la delega all'Expo, buongiorno. Buongiorno. Lei ha il sospetto, cioè è sembrato di capire, di essere stato allontanato proprio perché, per così dire, si voleva mano libera sugli appalti? Ma guardi, io registro alcuni fatti e cerco di darmi una giustificazione politica, perché quello che posso fare è questo. E certamente c'è stato un momento nell'estate del 2011 in cui chi cercava di, diciamo così, di contrastare sul piano politico il fatto che Expo diventasse un progetto in mano quasi totalmente alla regione Lombardia e infrastrutture lombarde è stato in qualche modo spostato dal suo ruolo istituzionale, e questo per me è un fatto indiscutibile su cui bisognerebbe oggi ragionare. Lei sembra però scaricare di responsabilità da questo punto di vista il sindaco Pisapia, e però voglio dire, se l'obiettivo era quello e il responsabile dell'azione politica in comune evidentemente il sindaco, un ruolo Pisapia in tutto questo ce lo deve aver avuto, non solo di omissione per così dire. Ma guardi, io sono molto chiaro su questo. Io ho una, come sono stato fin dall'inizio, una posizione critica sulla scelta del sindaco Pisapia sostanzialmente di delegare allora al governatore Formigoni la gestione di Expo. È stato un errore? È un errore. L'Expo è un grande progetto che nasce da una città, è sempre stato così, è giusto che sia così, e il fatto che il Comune di Milano, tra l'altro appena arrivato a una nuova composizione politica dopo 20 anni di centrodestra, delegasse alla regione totalmente il governo e la gestione di questo evento mi era sembrato e ancora oggi mi sembra un grande errore, perché L'Expo è una specie di grande acceleratore, va guidato da una mano ferma, va guidato dalla città e va guidato verso un traguardo, che è quello di avere una visione del futuro di Milano. Questa cosa non è avvenuta, quindi la mia è una critica politica. Questo non ha nulla a che vedere con il fatto che ci fossero, come c'erano, interessi, ma ripeto, la mia critica è una critica politica. Ecco, veniamo agli interessi. Ci interessa a questo punto soprattutto parlare con lei della questione del rapporto con le cooperative, insomma. Nella fattispecie si parla di Manutencoop, però appunto viene dato in queste ore, da queste prime carte dell'inchiesta, viene dato Greganti come appunto referente di fatto del mondo delle cooperative. Parliamo evidentemente di rapporti con quello, seppur lei non è un organico per così dire, con quello che è il suo partito. Ha avuto l'impressione che dai vertici nazionali del PD come dire, ci fosse una tensione anche verso il suo allontanamento proprio per questi motivi? Ma guardi, innanzitutto io ci tengo a precisare, perché poi la titolazione del giornale, come succede, semplifica in parte di forma. Io ho una stima per il movimento, per le cooperative, è un movimento nobile con una storia importantissima ed è ancora oggi un movimento nella stragrande maggioranza dei casi sano e che fa il bene del paese. Altra cosa è ragionare sul fatto che ci sia una forza politica che invece che avere un rapporto, come dire, come deve avere una forza politica con una grande forza produttiva e sociale, di, come dire, di autonomia e di scambio, abbia un rapporto di, a volte successo, di rappresentanza diretta degli interessi. Questa cosa io credo che debba essere finita. E in questo caso è avvenuto, secondo lei? Non c'è nessuna ragione per continuare a pensare che ci sia un grande partito italiano che ha questo rapporto. Ed è avvenuto anche in questo caso. No, io penso che quello che stia succedendo è che oggi questa cosa si sta concludendo. Io credo che il nuovo Partito Democratico di Matteo Renzi abbia chiuso una fase. Non c'è dubbio che invece sulla vicenda che mi ha riguardato, sulla vicenda Expo, il fatto di essere stato poi improvvisamente lasciato solo dall'allora direzione del partito, io credo, non ho nessun dato, ma come dire, mi permetta una supposizione, abbia avuto a che vedere anche col fatto che io mi ero opposto a un certo, come dire, a un certo modo di governare il progetto Expo. E che comprendeva anche un rapporto con le cooperative più stretto, diciamo, di rappresentanza diretta, come lo definisce lei. Esattamente, credo che questo sia stato un elemento che ha fatto sì che in fondo, quando mi è stata tolta la delega d'Expo e poi quando dopo un anno e mezzo mi è stato tolto tutto il mio ruolo assessorato, non ci sia stato un dirigente nazionale, un dirigente regionale, un dirigente provinciale del Partito Democratico che abbia detto: ma qui sta succedendo qualcosa di strano. C'è ancora la possibilità, secondo lei, dal suo punto di vista, che, come dire, che si arrivi a fare questo Expo in una maniera decente, per così dire, visto anche il quadro? Cioè, le dico, abbiamo visto anche che c'erano tangenti sugli appalti, ci sarebbero state naturalmente, perché poi è tutto da provare, delle tangenti sugli appalti per i padiglioni esteri, cioè dal punto di vista della figura che si fa non è no, un ma granché. Infatti, ma allora, la situazione è purtroppo degenerata. Io temo che il punto ancora una volta sia da un lato di controlli non sufficienti, dall'altro di scelte sbagliate sul piano della dirigenza, perché ricordiamoci il caso di un manager stimato come Gorini che non si capisce perché viene spostato nel agosto-settembre 2011 dal suo ruolo, che era proprio quello di controllare gli appalti, di seguire il piano delle infrastrutture, e al suo posto viene messo Paris. Ma quello che io voglio dire con forza è che invece noi dobbiamo assolutamente riprendere in mano questo progetto, perché oggi Expo è utile e non è pensabile che si possa rinunciare a questo grande momento di comunicazione con il mondo. Cosa si può fare? Innanzitutto tener conto delle vere condizioni dei lavori, quindi basta con questi sogni o con queste invenzioni, vogliamo sapere con precisione quali sono le infrastrutture che sono state realizzate, cosa si potrà fare e cosa si potrà fare nel sito. Poi bisogna pensare subito al dopo, quindi bisogna immaginare un modo con cui dare al suolo, a quel pezzo di terreno, dopo Expo, un valore che sia vicino al valore che è stato quello dell'acquisto con cui regione, comune, hanno comprato dai privati quelle aree. quello è stato un errore, ma ormai è stato fatto. Adesso bisogna cercare di far sì che quel suolo in futuro sia un suolo non per costruire decine di migliaia di metri cubi che rimarranno poi vuoti, perché non c'è nessun mercato per quel tipo di volumetria, ma perché sia un luogo dove l'agricoltura, la ristorazione, tutto il grande sistema della nutrizione italiano e lombardo e milanese possa essere valorizzato. Quello è il modo per dar valore a quell'area. Questo in prospettiva sulle infrastrutture, e invece dal punto di vista degli appalti, pensa che la scelta di investire direttamente l'autority guidata da Cantone e Cantone stesso possa bastare, possa servire, o come dire, ormai sembra... è talmente inquinata la cosa che non... Ma no, ma guarda, io penso che la scelta sia una scelta ottima, e mi sembra una scelta, come dire, assolutamente necessaria e che non ha nessuna obiezione. Ci vuole anche una visione politica. Non dimentichiamoci mai che la corruzione, soprattutto la piccola corruzione, perché qui stiamo parlando anche di piccole quote rispetto a quelle a cui siamo abituati, vive anche sull'assenza di una mano politica, di una regia forte. Quindi noi abbiamo bisogno oggi di riavere una regia forte su Expo, sapere dove vogliamo andare, sapere quello che succederà dopo. Questo è fondamentale, perché pensare di trovarsi poi un luogo che diventi una rovina su cui il pubblico ha investito più di 160 milioni e che era in origine un'area privata agricola che ha un valore che è 16 volte minore, è qualcosa di inaccettabile. Quindi ci vuole una regia politica subito che decida cosa succede dopo su quel sito. Grazie. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Il Consiglio degli Esteri dei Ministri europei ha adottato le conclusioni sull'Ucraina e relative misure restrittive, quindi in sostanza nuove sanzioni. Da segnalare adesso anche le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani sull'Italia. Dice: è evidente e chiara la volontà politica di non pagare. Il Ministero delle Finanze non vuole pagare i debiti della pubblica amministrazione ed è stato impedito all'attuale presidente del Consiglio di tenere fede alle promesse. Il caso Expo, l'autority guidata da Cantone verso la vigilanza sugli appalti. Oggi i primi interrogatori di garanzia. La vicenda dell'arresto di Scajola, oggi interrogatorio per la moglie di Amedeo Matacena. Decine di faldoni sequestrati all'ex ministro, dentro ci sarebbero veri e propri dossier. È il momento della borsa. Borse in diretta. Una giornata positiva, quella di oggi. FTSE MIB più 0,97%, FTSE All-Share più 0,91%, vanno bene anche le altre piazze finanziarie europee, la migliore al momento Francoforte che guadagna un punto percentuale, Parigi lo 0,14%, Londra lo 0,35%. Isabella Tasso, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buongiorno e bentornata. Buongiorno. Allora, come mai vanno bene le borse oggi? Le borse vanno bene, da un lato non preoccupa eccessivamente la situazione in Ucraina, dall'altro valutano positivamente la pubblicazione di risultati trimestrali da parte di alcune società. Questo è vero in particolare per Milano, che è fra le borse migliori, sostenuta appunto dal rialzo di alcuni big dopo la pubblicazione dei risultati, al caso della Popolare di Milano che fa più 5% dopo i conti e anche grazie all'attesa di una rapida da rimozione dei requisiti patrimoniali aggiuntivi imposti da Banca d'Italia. Fa bene anche Atlantia, sempre dopo la trimestrale fa più 4%. Sono pochi titoli in negativo, tra questi c'è Prysmian che c'è dell'1,68%, in assoluto il peggiore. C'è qualche motivo in particolare? Prysmian continua a reagire negativamente all'annuncio degli obiettivi per il 2014 che è stato fatto giovedì scorso, in particolare l'obiettivo riguardo all'EBITDA. In 4 sedute il titolo ha ceduto oltre il 14%, oggi perde un altro 1,5%. Grazie Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. C'è un'inchiesta di questa mattina che riguarda la mozzarella e bufala campana, sentiamo. Mozzarella DOP e prodotti caseari realizzati con latte e cagliata proveniente anche dall'est europeo, non sottoposti ai controlli previsti dalla legge e dal disciplinare per la tutela della mozzarella di bufala DOP, per di più con una carica batterica rilevata fino a 2000 volte superiore alla soglia consentita, potenzialmente nociva dunque per la salute umana. Inquietante, secondo la procura di Santa Maria Capua Vetere, il fatto che per aumentare la carica proteica del latte e migliorarne la resa si utilizzasse un concime chimico impiegato in agricoltura. agricoltura. Questa in sintesi l'attività di un'associazione a delinquere scoperta dai carabinieri di Caserta, che ha portato ai domiciliari 13 persone, tra cui i titolari del caseificio Cantile, uno dei più grandi della provincia di Caserta, che fornisce catene della grande distribuzione e registra un fatturato medio di 10 milioni. Coinvolti anche biologi e veterinari, ma non il consorzio di tutela della mozzarella campana, come spiega il maggiore Alfonso Pannone. È stata dimostrata questa indagine, che non è collegata appunto col consorzio, ma soltanto per quanto riguarda i controlli messi in atto da vari enti, c'era la connivenza appunto di alcuni pubblici funzionari, in particolar modo della ASL di Capua, che svelavano appunto le date dei controlli per far preparare l'azienda a che il controllo andasse a buon fine. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Santa Maria Capua Vetere. Ed è il momento di Daniele Biacchessi. Le carte giudiziarie sulla nuova Tangentopoli milanese raccontano un sistema di corruzione composto da un sottobosco di faccendieri, pluripregiudicati come Gian Stefano Frigerio, ex democristiano, e Primo Greganti, ex PCPDS, manager collocati nelle centrali di smistamento degli appalti, come il direttore generale per gli acquisti di Expo Angelo Paris, perfino uomini delle authority che dovrebbero vigilare sulla regolarità di bandi, procedure e assegnazioni. A leggere attentamente le intercettazioni ambientali e telefoniche dei protagonisti della cupola, si ritorna indietro di 22 anni, esattamente da quel 17 febbraio 1992, il giorno dell'arresto di Mario Chiesa, potentissimo RAS socialista del Pio Albergo Tiburzio. Tra parole in codice e discorsi in chiaro si avverte un sostanziale senso dell'impunità. Risulta impensabile che personaggi come Frigerio Greganti, bruciati da anni di malaffare negli anni della Milano da bere, potessero parlare al telefono di appalti, gare truccate, avanzamenti di carriera, dazioni di denaro, ovvero mazzette, con la stessa tranquillità con cui si può parlare di una partita di calcio o di una ricetta gastronomica. Il 7 novembre del 2013, ascoltate, Gian Stefano Frigerio parla con Claudio Lavorano, amministratore della Manutencoop, e dice: «Sulla città della salute tra poco comincia la fase delicata dei progetti. Bisogna che io da parte mia e lei da parte sua facciamo ogni sforzo di collegamento che lei e io abbiamo sul quadro politico per portare a casa un risultato pieno nei limiti del possibile. Per quello che posso fare dalla parte del governo con cui ho rapporti, questa è una carta che può servire anche a lei, perché un pezzo di governo ce l'ha anche lei, forse anche di più. È fin troppo evidente che la cupola milanese era certa di avere spalle solide e potenti coperture politiche molto, troppo in alto. E non è un caso che Stefano Boeri, ex assessore alla cultura con delega all'Expo, poi ritirata dal sindaco Giuliano Pisapia, oggi denuncia di essere stato mandato via perché ostacolava le lobby economiche, cioè la potente lega delle cooperative e la rete di potere di Roberto Formigoni e dei suoi uomini inseriti alla guida di Infrastrutture Lombarde, il cuore degli appalti di Expo 2015. Dalle carte dell'inchiesta emerge, infatti, un patto tra imprese vicine a CL e cooperative rosse, una sorta di nuovo manuale Cencelli che formulava accordi su bonifiche di aree, sanità, cantieri. Per dirla con le parole scritte nelle carte, a Milano era avvenuta una saldatura tra imprese, cooperative e un ampio schieramento politico per condizionare e assegnare appalti in cambio di tangenti e avanzamenti di carriera. E tutto questo avveniva alla luce del sole, in un clima di massima impunità. Basterà la nomina di Raffaele Cantone come difensore della legalità per gli appalti di Expo 2015? Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sentiamo Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. Living on a jet plane, John Denver, quindi beh, un jet per nuove frontiere, sempre.